Io chiuderei, Fabio, questo capitolo con questo testa a testa Messi-Ronaldo, perché insomma, stamattina Platini, parlando del Barcellona in un'intervista a un quotidiano catalano, ha detto che, Platini, che Messi è il diamante di una squadra meravigliosa. Cioè, Ronaldo non è molto meno diamante, indubbiamente, e sarà poi divertente vedere a gioco lungo, sarà interessante, curioso, chi di questi due andrà più lontano dal punto di vista della gloria imperitura e quale gradino di podio magari di tutti i tempi riusciranno a salire, ma già adesso questa lotta è affascinante. Sì, questa lotta è fantastica. Devo dire che Ronaldo parte svantaggiato per due motivi, perché Messi gioca comunque in una nazionale più forte e gioca comunque in una squadra che ha un impianto già costruito, e lui si è innestato perfettamente contribuendo a renderlo quasi invincibile. Ronaldo invece gioca in una nazionale come il Portogallo, che ha un ottimo impianto classico mutuato dalla sua storia, ma che non è accreditata per essere forte come l'Argentina, cioè ha dei compagni meno forti rispetto a quelli di Messi, ed è in una squadra come il Real Madrid nella quale lui è spesso costretto a tirarsi sulle maniche, cosa che peraltro non mi risulta gli dispiaccia, per cercare di risolvere da solo le cose, perché sì, è una squadra che ha un impianto completamente diverso, cioè come il 90% delle squadre al mondo non ha uno standard classico, cioè non ha una velocità di crociera o un pilota automatico come invece ha il Barcellona, ha l'Arsenal o altre 3-4 squadre in tutto il pianeta. Quindi io trovo che Messi, cioè se devo dirne uno con una pistola alla tempia dico Messi, ma giusto se no costretto, però penso anche davvero che Ronaldo da questo punto di vista sia costretto a un qualcosa in più, ecco, poi sono giocatori che fusi insieme farebbero, credo, Dio, perché hanno anche il fatto, uno è destro, l'altro è mancino, uno è bravo di testa, l'altro è... andrebbero davvero fusi.